Motherfucker. Odio i figli di papà più di chiunque altro. Odio i figli di papà quando comprano al parco. Odio te, ma odio anche me stesso. Ogni cosa che non è il mio possesso. Odio chi parla senza ascoltare. Odio che i soldi senza lavorare. Odio che i figli e non li ama. Odio la mia ex perché è una puttana. Odio le persone che si credono da un vito. Odio l'amore perché mi ha tradito. Odio gli infami più di figli di papà. Chi parla e parla fa qua caracqua. Odio questo stato che fotte tutti. Buoni e bravi vivono soli farabutti. Odio chi il rap lo prende come moda. Dico una bugia, odio la droga. Odio, odio tutto ciò che non va. Odio, odio tutto ciò che si sa. Odio, odio, odio, odio. Odio, odio tutto ciò che non va. Odio, odio tutto ciò che si sa. Odio, odio, odio, odio. Amo, ha, se, se, odio, se, se. 1, 2, 3, 4. Odio le persone che mi stanno incollate. Odio le persone che sono da tutti amate. Odio ogni troia che ha spezzato un cuore. E le persone che non hanno onore. Odio chi scappa con un addio. Chi parla, parla, parla solo di Dio. Odio la mattina, il pomeriggio e la sera. Odio il matrimonio perché è come una galera. Ma adoro la tua tipa perché è come una pantera. Odio chi non crede, chi non crede in sé. Odio chi non ha mai creduto in me. Chi non parla e resta muto. Invece di alzarsi resta seduto. Odio questa musica perché mi ha ucciso. E soprattutto odio il mio migliore amico. Odio il foglio dove sto scrivendo. Odio il tuo rap perché fra non vai a tempo. Ammiro le persone che odiano qualcuno. Io amare, io non amo nessuno. Odio, odio tutto ciò che non va.